got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 dedicata all'identità, alla migrazione e ovviamente a una cena a cui invitiamo ogni settimana un nostro ospite. Questa sera sono davvero contenta di avere come ospite una giovane scrittrice siciliana d'adozione e georgiana di origine, Ruska Giorgioliani. Buonasera. Buonasera, vorrei presentarvi i piatti che vi ho portato, perché vi ho portato più di uno. Ah, benissimo. Uno è georgiano, appunto, che viene dalla mia terra, dalle mie origini, è un piatto conviviale, un punto un aggregante nella società georgiana, che è il khinkali. Si tratta di un tortellone enorme, più grande rispetto ai tortelloni, ai tortelli che conosciamo qui in Italia, ed è ripieno di carne tritata, speziata. C'è il coriandolo, c'è molto pepe, insomma tutte le spezie appunto che fanno parte, che sono l'ingrediente importante della cucina georgiana. Il secondo piatto è un piatto... Anzi, non è un piatto, perché Alberto Savinio direbbe che non è un cibo vero e proprio, che è il dolce. Un dolce siciliano, la classica cassata siciliana, che è il simbolo della fantasia, della libertà dal bisogno, che è il dolce, no? Che rappresenta per me la Sicilia e che ha rappresentato per me. Le sue due anime, quindi in due piatti, no? Sì, mi viene da dire. Perché facciamo un salto indietro. Lei è nata nelle montagne del Caucaso, sì. Negli anni che videro lo scoppio della guerra tra nazionalisti e indipendentisti in Georgia, e poi è arrivata a Palermo, grazie a un gemellaggio tra i due paesi, no? Avevo 11 anni, ma venivo solo d'estate. Passavo solo dei mesi estivi qui in Sicilia, poi me ne tornavo nel mio paese. Tutto questo grazie a un'iniziativa del comune, no, di Palermo, in quegli anni in cui il suo paese, insomma, attraversava un periodo difficile. C'era questa campagna lanciata dal comune di Palermo per ospitare dei bambini georgiani. Noi in quegli anni abbiamo sentito molto parlare di Tbilisi, della Georgia, e poi forse ce ne siamo anche un po' dimenticati. Cosa stava accadendo nel suo paese? Ce lo vuole ricordare? Nel mio paese si stava accadendo quello che un po' si stava verificando in tutta la zona dell'ex Unione Sovietica, che si erano riaccese dei dissapori che avevano una storia lunga, etniche, questi dissapori etnici, religiosi, anche su altre basi, insomma, e poi c'erano delle forze esterne che fomentavano, che cercavano di stimolare alcuni secessionisti indipendentisti, nel nostro caso abkhazi, etnicamente abkhazi, che si sono ribellati in un certo senso alla Georgia, all'indipendenza della Georgia, o meglio allo Stato nascente georgiano, e hanno voluto, insomma, andare e fondare una loro repubblica e stare insieme alla Russia. Quindi insomma c'è stato il ruolo della Russia, e quindi la risposta non è all'altezza dei georgiani, anzi è la debolezza di tutti quei popoli che si sono ritrovati in una situazione che non hanno saputo gestire, e quindi sono scoppiate delle guerre vere e proprie, e in una di queste guerre sono la vittima di una di queste guerre è stata anche la mia famiglia, ecco, etnicamente georgiana, che è stata costretta a lasciare tutto quello che aveva a trasferirsi quindi nella capitale. Le vittime tra il 91 e il 93 sono stimate tra 10 e 30.000 persone, i profughi ovviamente molti di più, e la sua famiglia, come lei giustamente diceva, si è ritrovata a perdere ogni cosa. Suo padre era, se non sbaglio, un agronomo, sua madre un insegnante. Sì. E lei è stata portata dai nonni, se non sbaglio? Sì, un primo tempo. Un anno e mezzo sono stata, sì, dai nonni, ho vissuto dai nonni. E poi questo invito siciliano, e qui la sua vita ha subito una sterzata in qualche maniera, doveva essere una cosa temporanea, doveva passare qualche estate, no? Poi invece cos'è accaduto? C'è stato un incontro felice con questa famiglia? Sì, molto felice, quindi noi d'accordo abbiamo deciso appunto di intraprendere questa vita assieme appunto nel 2007, e quindi sono arrivata col visto di studio stavolta, mentre prima venivo sempre col visto turistico, quindi con questa intenzione di appunto di cominciare questo percorso di studio qui in Sicilia, e loro mi hanno appoggiata, mi hanno aperto la porta della loro casa, e insomma io sono tuttora qui e faccio parte della loro famiglia. Lei ha portato avanti i doppi studi in Georgia e sì, in Italia. Mi sono laureata in Georgia nel 2006, e nel 2007, quando sono arrivata qui, mi sono riscritta all'università, e quindi mi sono laureata in filosofia. E ha vinto nel 2009 il suo primo premio letterario, il premio Mondello Giovani Poesia, un premio molto prestigioso con i versi dedicati a Dino Campana. Poi ha scritto questo libro, che è stato pubblicato nel 2015 da Corrimano Editore, La tua presenza è come una città. L'editore è chiaramente un piccolo editore siciliano, ma sta avendo una certa eco, quindi immagino che sia molto contenta di questo esordio, no? E tra poco ne parleremo. Com'è stato questo arrivo a Palermo, la prima volta? Eravamo 200 bambini, più o meno della stessa età, e siamo arrivati con un aereo preso in prestito dal comune di Palermo, e ci aspettava già all'aeroporto il sindaco con un banchetto, ecco, e con appunto delle pietanze siciliane. Ecco, ci hanno accolti appunto così, coi dolci, con la frutta, con le banane, che io ricordo sempre questa impressione che mi avevano fatto le banane, perché dalle nostre parti in quel periodo era di difficile reperibilità la banana, e quindi non l'avevamo quasi mai mangiata, ecco, o se l'avevamo mangiata e assaggiata qualche volta, così una volta o due forse, e quindi mi ricordo questo impatto in un certo senso con la cucina, e con la frutta, con la fantasia della frutta e quindi dell'ospitalità, ecco. Ci fermiamo brevemente e torniamo a parlare di questo romanzo. Mi viene da dire un romanzo russo in lingua italiana, scritto in italiano, di Ruska Sciorsciogliani, tra pochissimo. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Bentornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera siamo con una scrittrice siciliana e georgiana che ci sta raccontando del suo romanzo pubblicato da poco, un romanzo che è stato molto lodato dalla critica. E lei è arrivata a Palermo, come ci diceva, grazie a un gemellaggio tra i due paesi, ha trovato una famiglia che l'ha accolta e cresciuta. Ruska, questa famiglia siciliana ha rappresentato per lei una nuova vita, immagino. E com'è il suo paese oggi? Il mio paese sta vivendo una fase di transizione, sta cercando di raggiungere un po' la storia, i tempi della storia, perché per un ventennio è stata nelle retrovie, ecco. Quindi sta cercando di rialzarsi, e non è facile perché la zona, sia geopoliticamente, geograficamente, ecco, è una zona molto da una conformazione particolare, è un crocevia, è sempre stato un crocevia, è un mosaico di popoli, di interessi, di intenzioni che venivano, arrivavano da più parti, ecco. Quindi la società georgiana sta cercando di capire quale sia il suo ruolo all'interno della storia mondiale, ma anche della storia regionale, della formazione regionale, che è quella appunto euroasiatica. Quindi è un po' disorientato, ecco, disorientata la società georgiana, però pian piano si sta cercando di capire quali possono essere le direttive che si possono seguire, e quindi si vive da un canto in una sorta di squilibrio politico, però dall'altro c'è della speranza, ecco. Si vive, è tangibile questa speranza negli occhi dei georgiani, che ecco, questa nuova vita, che comunque questo nuovo percorso politico-sociale che ha intrapreso potrebbe portare da qualche parte, che non sia quella la parte delle guerre, del caos, ecco. Lei torna periodicamente, no, nel suo paese? Sì, sono appena tornata, sono stata per un mese in Tbilisi. La sua famiglia d'origine, come ha accolto la sua decisione poi di andare in Italia, di rimanere in Italia, perché mi pare di capire il suo futuro è in Italia? La mia famiglia ha accolto tutto questo con molta filosofia, ecco, come si suol dire. Che forse per una persona dai miei interessi poteva essere una bella pista quella, anche sia a livello appunto di un futuro, di un ipotetico futuro, ma anche a livello umano, psicologico, sarebbe stata una sorta di nido, ecco, un altro nido familiare che mi avrebbe accolta, mi avrebbe abbracciata, ecco. E quindi la mia famiglia è stata d'accordo, ma sin da subito, perché anche loro hanno avuto un rapporto, anche se virtuale, non si sono mai conosciuti personalmente, anche se ultimamente c'è qui mia mamma, hanno invitato mia mamma, e quindi abbiamo questa sorta di appunto famiglia multietnica, ecco. Una famiglia allargata, insomma. Sì, una famiglia allargata, c'è anche mia sorella da qualche mese che studia, che anche lei ha deciso di intraprendere un percorso di studi, che è l'autrice della copertina del mio libro, perché studia pittura qui all'Accademia di Palermo, e quindi questa sorta di famiglia allargata. Lei, tra l'altro, è stata profuga. Come recepisce, come vive la presenza in questi anni, appunto anche in Sicilia, di molti profughi che arrivano chiaramente da un'altra zona geografica rispetto alla sua, ma condividono con lei, anche se la sua migrazione è stata con un visto turistico di tutt'altro tipo, ma questa condizione di profugo e anche questa tutto sommato nostalgia che secondo me traspare anche dal suo romanzo, che è quella tipica della condizione di chi deve emigrare. Sì, questa, i francesi hanno un termine molto fine e anche azzeccato, del paese, una sorta di spaesamento, ecco, è la condizione in cui ci si ritrova quando si è profughi, ma quindi non è soltanto il fatto materiale fisico di aver perso appunto la casa, il dove vivere, eccetera, ma proprio l'essere spaesati, no? Il non avere più dove andare, il non poter chiamare casa qualche luogo anche a livello non fisico, ecco, perché la casa più che fisica è metafisica come concetto, ecco. Quindi questo spaesamento è una condizione che demolisce interiormente, qualcosa che non fa andare avanti, che uccide tutte le speranze che un uomo normale dovrebbe nutrirsi ogni uomo, credo, soprattutto giovani, quando si tratta dell'infanzia e la gioventù, ecco. Quindi queste condizioni, la condizione in cui si ritrova, in cui io vedo che si trovano alcuni giovani, ma anche non giovani, appunto dei bambini, soprattutto quando vedo appunto queste immagini di bambini abbandonati, in un certo senso, abbandonati al mare, ecco, nel mare, è un'immagine molto dolorosa per me, cioè, sono delle immagini che mi suscitano delle emozioni negative che ho vissuto, che io conosco e che non vorrei risentire, però capisco che è qualcosa che appartiene alla storia, all'attualità e che quindi comunque bisogna fare qualcosa, ecco, intervenire in qualche modo. Veniamo al suo libro. Un libro, dicevamo, particolare, unico, com'è unica anche la sua storia, perché è un libro, mi verrebbe appunto da dire, un romanzo russo in lingua italiana. Nei primi, la storia è quella di due ragazzini che si incontrano nei primi anni del Novecento e poi questa amicizia prosegue. Entrambi sono molto uniti da questa amicizia, però con posizioni diverse. Uno è un professore e l'altro un ingegnere. Il gesto di Dmitry, che non crede alla causa sovietica e alla rivoluzione, di staccare il ritratto di Lenin da una aula e farlo volare dalla finestra, cambierà la vita di questo professore. Verrà mandato in prigione al confino. E Victor, l'altro protagonista, l'ingegnere, prende con sé la famiglia praticamente di Dmitry, no? Ruska, da cui parte un romanzo che si dipana in quasi 100 anni della storia del suo paese e attraverso poi l'amicizia anche dei figli. la complessità di questo dramma è nata proprio appunto dal mio interesse verso la multidimensionalità della vita umana, perché io, avendo dentro di sé questi strati, molteplici strati di etnicità, di calore umano e anche ferocia umana che io testimone, in un certo senso sono stata testimone, ecco, quindi ho cercato di dare una forma a tutto quello che si era accumulato nella mia esperienza di profuga, e di profuga soprattutto che viene accolta in un'altra società, in un'altra cultura, in una nuova cultura, quindi che si permea di questa cultura, ecco. Secondo me questa dimensionalità anche a livello generazionale, perché la dimensionalità appunto è anche legata al tempo, quindi risponde un po' a questa mia esigenza di esplorare la natura umana, queste sfaccettature che contraddistinguono la natura umana, perché secondo me l'uomo non può essere ridotto a una sola dimensione, ecco. Se in questo mio libro c'è testimonianza di qualcosa, sicuramente è quella della ricchezza dell'uomo o dell'essere umano, ecco. La trama, tra l'altro, è complicata e viene costruita questa storia attraverso lettere, narrazioni in prima persona con punti di vista diversi, giocando anche con il tempo, perché vengono anticipati degli eventi a un certo punto che verranno compresi solo dopo. Una costruzione, insomma, sorprendente per una scrittrice esordiente. Sì, sono molto appassionata della forma, dello stile, che è l'involucro del contenuto. Il contenuto non è, il significato non esiste fuori dal significante, ecco. Quindi la ricerca stilistica per me è essenziale. Io parto dalla ricerca stilistica, i miei scrittori preferiti sono coloro i quali si sono dedicati anima e corpo alla ricerca stilistica. In Italia soprattutto, per esempio, Landolfi, che tra l'altro ha tradotto degli autori russi, quindi per me l'autore di riferimento per quanto riguarda appunto lo stile, la forma, è sicuramente lui. Altri punti di riferimento anche russi quali sono? I russi, soprattutto Grossman, tra i russi Grossman, Vasily Grossman. Vasily Grossman è un Tolstoi del Novecento, come l'hanno definito, anche per me vale questa definizione e ha una certa importanza, quindi il suo Vita e Destino è stato il libro che mi ha accompagnato durante la scrittura del mio, perché il suo approccio umano, psicologico alla storia e alla grande storia e alle piccole storie individuali che si inseriscono felicemente o anche non felicemente dentro questa storia, ne sono permeate. Per me è importante questo approccio di Vasily Grossman, ecco. E soprattutto per quanto riguarda l'amicizia, invece, il mio punto di riferimento è stato un piccolo racconto di Vasily Grossman che si intitola Fosforo, che io avevo letto durante la guerra in russo quando ero piccola, e anche se ho avuto difficoltà a capirlo del tutto, ho capito che c'era un senso importante dell'amicizia, quasi etica, qualcosa che forse non appartiene più, forse apparteneva a una vita che non abbiamo più, che non la conduciamo più, una sorta di epicità, l'amicizia epica, quasi omerica, ecco. Quindi era prima di Omero, io mi ero avvicinata a questo racconto, e poi nella costruzione del mio romanzo questo racconto mi è stato molto utile, ecco. Lei ha scritto in italiano, che è la sua lingua d'adozione ormai da molti anni, però comunque non è la sua lingua di nascita. Volevo capire qual è il suo rapporto con il russo e con l'italiano e perché ha deciso di scrivere in italiano. La mia lingua materna è il georgiano. E quando appunto ero piccola in casa si parlava il georgiano e si seguivano per esempio delle trasmissioni quando c'era l'elettricità, si poteva guardare la TV, ascoltare la radio, soprattutto in russo, per un certo periodo, perché poi durante la guerra, non essendoci più l'elettricità, non avevamo alcun accesso a questi medium, a questi media, ecco. Quindi per me il russo e il georgiano in un certo senso erano gerarchici, cioè prima veniva il georgiano, poi veniva il russo, ma comunque erano molto legati come fenomeni linguistici, ecco. Quindi per esempio c'erano dei termini russi, soprattutto nella vita quotidiana, che facevano parte del georgiano, di una famiglia georgiana, nella sua vita quotidiana usava molti termini russi, e quindi c'era questo dialogo, anzi, tra queste due lingue. L'italiano è arrivato successivamente, però è stato un ingresso splendido, ecco, perché con l'italiano io in un certo senso ho scoperto il piacere della lettura che non fosse quella di ripiego, quello di ripiego, perché quando io leggevo in russo e in georgiano, i classici georgiani e russi, era un po' per sfuggire al caos, per rintanarmi nel mio cantuccio, nella mia biblioteca paterna e cercare di dimenticare quello che stava succedendo, quello che stava accadendo all'esterno. Quindi l'italiano per me è stata una lingua di liberazione in un certo senso. Ancora una volta, come la cassata era la libertà dal bisogno. Quindi il primo impatto è stato questa sorta di superficialità, però superficialità necessaria, ecco, perché esiste una superficialità necessaria che è appunto poi il senso della letteratura, della cultura tutta, dell'arte, quindi questo impatto con la poeticità, con la melodiosità dell'italiano e con gli autori italiani, a cominciare da Dante, soprattutto Dante e Boccaccio, che sono dei miei autori, tanto quanto lo sono Rustaveli, il poeta epico georgiano, o Pushkin, o Tolstoi, insomma. Quindi tutti questi autori, personaggi, fanno parte del mio immaginario poetico, umano, e quindi i miei personaggi li ho tratti da questo, ecco. Bene, grazie a Ruska Sciorciogliani e al suo libro per essere stati con noi questa sera. Le musiche che avete ascoltato durante questa puntata sono state tratte dal film Ogni cosa è illuminata, un film americano del 2005 che parla chiaramente dell'Ucraina, quindi non della Georgia, ma che mi ha ricordato, e leggendo delle recensioni non sono la sola, le atmosfere di questo libro, no? Ruska, cosa ne pensa? Mario Baudino, un critico che ha scritto un bell'articolo riguardo al mio romanzo, aveva accostato il mio libro ai primi libri di Safran Foer. Secondo me c'è una risonanza, perché quella nostalgia che si riscontra nel libro di Safran Foer, secondo me è qualcosa di vivo e vibrante anche nel mio. Grazie per essere stata con noi questa sera. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto di Indovina chi viene a cena. La prossima puntata vi aspetta sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. Ciao. You've got to give a little. That's the glory of love.